fuori dalla figa come un lampo che divide questo cielo. Ai sguardi dei dottori mia madre prende davvero. Mio padre mi guarda serio perché sa che sarà dura. Con i calli sulle mani mantenere l'andatura. Sto due anni tra i regali degli e pari mala. Pari tra i precari se vivo giocando giù alle popolari. Magari sarebbe stato tutto meno un po' più forte. Quel giorno non passava la carezza della morte. Siamo soli, siamo figli per un padre troppo stanco. Di vivere la vita senza nessuno al suo fianco. E intanto andando tutte le notti in bianco, cercando la speranza rientra solo di qualcun altro. La prova si risposa, intanto è normale cresco. 8 anni con la voglia di capire che è successo. E intanto la famiglia si ripiglia da quei giorni dove di notte nemmeno dormi. Io scrivo l'anello perché so che tutto torna. La vita fra una stronza che ti segue come un'ombra. Dal giorno del battesimo alla foto sulla tomba. È una morsa che ti stringe al collo come un'anaconda. Questo è l'anello perché so che tutto torna. La vita fra una stronza che ti segue come un'ombra. Dal giorno del battesimo alla foto sulla tomba. È un anello che ricorda la forza di chi non molla. Se dal giorno del battesimo cazzo non cresci calmo. Quando gli altri forse avanti cominciavano quei grammi. Dammi un altro motivo per cominciare. L'appoggio sulle mie labbra quel giorno inizio a fumare. Le bombe le porto per un'altra mia realtà. Passo le notti a berne birra mangiando pizza e kebab. Ma fra la vocazione perversa rende la vita diversa. Fuori di casa da solo senza nessuno che stressa. A 18 ho visto la mia vita consumarsi. Tra le bottiglie di crack altri 5 pezzi sparsi. Non fermarsi che tammina che l'invade. Molti altri con gli sbalzi in certi giorni poi tramma. Con i clip, l'MD, con le Mr. Beast. E la mia musica rimane sempre fuck police. Yo, Cristian, in arte fat MC rimane quello. Che ieri ci ripetiamo perché questo è l'anello. Io scrivo l'anello perché so che tutto torna. La vita fra una stronza che ti segue come un'ombra. Dal giorno del battesimo alla foto sulla tomba. È una morsa che ti stringe al collo come un'anaconda. Questo è l'anello perché so che tutto torna. La vita fra una stronza che ti segue come un'ombra. Dal giorno del battesimo alla foto sulla tomba. È un anello che ricorda la forza di chi non molla. Fat MC over kill army, il back, l'anello 2010, 89 bpm, a me la uguale, fottute menti a tutti quelli che sono fuori dal vostro anello. Andate a fare il culo.